Il signor Clewitt diede a papà e al signor Fuller l'incarico di formare le due squadre. I due andarono a sistemarsi ai due lati della stanza e, tra battute e risate del pubblico, cominciarono a chiamare a turno i partecipanti. Laura seguiva ansiosamente la composizione delle squadre. Prima vennero scelti tutti gli adulti, naturalmente. Uno dopo l'altro andarono ad aggiungersi alle due file che si stavano formando di qua e di là della stanza. E Laura cominciò a temere che Gerald Fuller la scegliesse prima che lo facesse papà. Non voleva gareggiare contro di lui. A un certo punto ci fu un momento di pausa. Papà fece una battuta e tutti risero, ma Laura capì che lo aveva fatto per prendersi un momento di tempo e alla fine chiamò Laura Ingalls. Laura corse ad aggiungersi alla fila di papà. C'era anche mamma da quella parte. Papà l'aveva chiamata tra le prime. Gerald Fuller chiamò Foster. Era l'unico adulto rimasto. Forse papà avrebbe dovuto scegliere lui, ma aveva preferito avere lei in gruppo. Foster non doveva essere molto brillante nello spelling. Era il colono che l'inverno precedente aveva stupidamente mandato a monte la caccia alle antilopi, buttandosi giù dal cavallo di Almanzo Wilder e mettendosi a sparare anzitempo. Quando furono scelti anche tutti i ragazzi e i bambini, compresi i più piccoli, le due file arrivarono alla porta. A quel punto il signor Clewitt aprì la gara con parole corte e di uso comune. Fo, lo, wo, ro, rao, hero. E qui cadde il signor Barclay. Si era confuso e aveva detto hero, he, hero, o oh, ero. Uno scoppio di risa accolse il suo errore e lui si guardò attorno stupito. Poi rise anche lui e andò a sedersi e uno era fuori. Poi le parole cominciarono a diventare più lunghe e i giocatori cominciavano a sbagliare più spesso. Per un po' la fila di Gerald Fuller fu più corta di quella di papà, poi si accorciò anche la sua, poi di nuovo l'altra. C'era grande allegria, Laura si sentiva a proprio agio. Lei era brava in ortografia, sapeva sempre, beh, quasi sempre, come si scrivono le parole. Con la punta del piede ancorata in una fessura del pavimento e le mani dietro la schiena, finora non aveva sbagliato mai. Quattro di meno nella squadra avversaria, tre di meno in quella di papà. Toccava di nuovo a lei. Differentiation, disse il signor Clewitt. Laura prese fiato e cominciò. Differentiation, D-E-F, diff, F-E-R-F-A-R, fair, E-N-T-I, N-T, A, A-T-A-I on N differentiation. Ormai erano seduti quasi tutti. Chi sbagliava lasciava la fila tra risate e battute. Nella squadra di Fuller erano rimaste sei persone, in quella di papà solo cinque: papà, mamma, Florence Garland, Ben Woodworth e Laura. Repetitious, disse il signor Clewitt, e cadde uno degli avversari portando le squadre in pari. Repetitious, disse la voce serena di mamma. Repetitious. Mimosatious, disse il signor Clewitt. Gerald Fuller cominciava. Mimosatious, mimosa. Guardava il maestro. No. S.I., ricominciò. Niente da fare, e andò a sedersi anche lui. La parola passò quindi a Florence. Mimosatious, cominciò lei. M.I.M., mim. O.S.A., mimosa, T.I. A pensare che aveva fatto la maestra. Sbagliò anche il concorrente dell'altra squadra. La parola passò a Ben, che scosse la testa e non ci provò nemmeno. Ancora uno dell'altra squadra e poi toccava a Laura. Il signor Foster attaccò. Mimosatious, mim, osa, mimosa, cous, shoes, mimosatious. Scoppiò un grande applauso e qualcuno gridò: Caspita, Foster, bravo! Il signor Foster si era levato la giacca ed era rimasto in maniche di camicia, una camicia a quadri. Sorrideva timidamente, ma c'era uno scintillio di divertimento nei suoi occhi. Nessuno aveva immaginato che fosse così abile con l'ortografia. Ormai il signor Clewitt sceglieva parole dalle ultime pagine del libro di spelling, parole sempre più rare e difficili. Nell'altra squadra sbagliò un altro concorrente. Di qua, mamma. Restavano solo papà e Laura a combattere contro il signor Foster. Andarono avanti per un po' senza mai sbagliare. Nell'aula si era fatto silenzio. Toccò a papà, poi al signor Foster, poi a Laura, poi di nuovo al signor Foster. Erano due contro uno, ma il signor Foster teneva testa a tutti e due. Xanthophyll, disse il signor Clewitt. Toccava a Laura. Xanthophyll, disse lei. E poi? Inaspettatamente sentì di avere una grande confusione in testa. Chiuse gli occhi e le pareva quasi di vederla quella parola, tra le ultime del libro di Spelling, ma non riusciva a pensare. Le parve di essere rimasta zitta, sotto gli occhi di tutti per un pezzo. Xanthophyll, disse disperatamente e cominciò in fretta. X-A-N, Xan, T-H-O, Xantho, P-H, cercò di pensare velocemente. I-L? Il signor Clewitt scosse la testa. Tremando per la tensione, Laura andò a sedersi. Ora papà era rimasto solo. Il signor Foster si schiarì la voce. Xanthophyll. X-A-N, Xan. T-H-O, Xantho. P-H-I. Laura trattenne il fiato. Tutti trattenevano il fiato. L, disse il signor Foster. Il signor Clewitt aspettava, anche il signor Foster aspettava. Per un po' non accadde nulla. Poi il signor Foster disse: Beh, allora ho perso, e andò a sedersi. Lo applaudirono lo stesso, e quella sera si era guadagnato il rispetto di tutti. Xanthophyll, disse papà. Sembrava impossibile ormai che qualcuno riuscisse a fare lo spelling di quella parola difficile e rarissima. Ma Laura pensava che papà ci sarebbe riuscito. Doveva riuscire. X-A-N-Xen, cominciò papà. T-H-O-Xantho, P-H-I. Parve rallentare, ma forse era solo un'impressione. Doppia L! Il signor Clewitt chiuse il libro. Non si era mai sentito un applauso fragoroso come quello che accolse la vittoria di papà. Aveva battuto tutto il paese. Ancora animati e scaldati dal gioco, tutti cominciarono a vestirsi ridendo e scherzando. Non mi sono mai divertito tanto, disse il signor Bradley a mamma. E il bello è che venerdì prossimo ci sarà un'altra serata, disse la signora Garland. Chiamarono tutti fuori con le lanterne accese che ondeggiavano nella notte. Allora, ti senti un po' meglio adesso? Chiese papà a Laura. Sì, che divertimento è stato, disse Laura. Una sfilza di divertimenti. Ora, durante la settimana, c'era il piacere di aspettare il venerdì. Dopo la seconda riunione del circolo letterario, cominciò una vera e propria gara a chi organizzava la serata più divertente e originale, e ogni giorno si sentiva qualche novità. Il secondo venerdì fu dedicato al gioco delle sciarade, e di nuovo papà si distinse tra tutti per l'allegria e l'originalità delle sue trovate. Quella sera, tornando a casa, Laura sentì il signor Bradley dire: Non sarà facile inventare qualcosa di meglio per il prossimo venerdì. E Gerald Fuller gridò: Una serata musicale, perbacco! Ne abbiamo suonatori di talento tra noi. E così, il venerdì successivo ci fu una serata musicale. Papà col violino e Gerald Fuller con la fisarmonica. Incantarono tutti. Ogni volta che smettevano di suonare, a forza di applausi, il pubblico li costringeva a ricominciare e anche quella sera ci fu grande allegria. Pareva impossibile fare meglio, ma ormai ci si metteva tutto il paese e c'erano addirittura famiglie di coloni che venivano dai dintorni col carro per partecipare alle serate. Gli uomini si misero d'impegno tutti insieme per organizzare una serata di musica davvero grandiosa. Fecero addirittura le prove e presero in prestito l'organo da camera della signora Bradley. Il venerdì sera impacchettarono l'organo con trapunte e coperte, lo caricarono sul carro a buoi del signor Foster e lo portarono a scuola. Era uno strumento magnifico, di legno lucido, coi pedali rivestiti di stoffa e la parte superiore tutta esili colonnette e scaffaletti minuscoli e piccoli specchi romboidali. Il leggio era di legno traforato come un merletto, con un panno rosso incollato dietro, che si intravedeva attraverso i buchi, e due sostegni rotondi di qua e di là per posarci i lumi. Lo sistemarono al posto della cattedra, che fu spostata più in là, Il signor Cluit aveva scritto il programma sulla lavagna. Erano previste musiche per solo organo, musiche per organo e violino, e li avrebbe suonato papà, e musiche per organo e voci, quartetti, duetti e voci sole. Una canzone fu cantata dalla signora Bradley. Diceva: «Tornate, tornate indietro, anni in rapida fuga, al tempo dell'infanzia, per una sera sola riportatemi». Era una canzone così triste che a Laura venne un groppo in gola. Mamma si asciugò una lacrima col fazzoletto, molte signore piangevano, molti uomini tossicchiavano e si schiarivano la voce. Fu una serata memorabile e tutti dichiararono che meglio di così non si poteva fare. Ma papà disse: «Aspettate e vedrete». Nel frattempo era stata ultimata la costruzione della chiesa. Ora, la domenica, il reverendo Brown predicava e si andava in chiesa per il culto mattina e sera. Nel pomeriggio c'era scuola di catechismo. Era una bella chiesa, spaziosa, ancora molto semplice perché era nuova. Mancava la campana e le pareti erano di legno grezzo. All'esterno le tavole non avevano ancora assunto il colore grigio che prendono quando stanno all'aria per un po' di tempo. E all'interno non erano verniciate e si vedevano tutti i chiodi. Anche il pulpito e i banchi erano fatti di legno grezzo, ma c'era un buon profumo di pulito e di legno nuovo. Davanti all'ingresso c'era un piccolo portico dove prima di entrare ci si poteva fermare un momento al riparo per rassettare gli abiti scomposti dal vento. La signora Bradley aveva prestato l'organo alla chiesa e quando si cantavano gli inni sacri c'era l'accompagnamento musicale. Laura ascoltava volentieri anche i sermoni del reverendo Brown. Non capiva molto di quello che diceva, ma le sembrava di avere lì davanti John Brown in persona, uscito fresco fresco dal libro di storia. Quando predicava gli scintillavano gli occhi, i baffi e le basette bianche fremevano e le lunghe mani ossute gesticolavano e davano pugni sul pulpito, facendo vibrare l'aria. Lei si divertiva a correggergli le frasi mentalmente per far quadrare grammatica e sintassi. Non c'era bisogno di tenere a mente il sermone, perché a casa papà pretendeva solo che lei e Carrie sapessero recitare i brani delle scritture che erano stati letti quel giorno. Poi, finito il sermone, si cantava. Il più bello era l'inno numero 18. Le note dell'organo riempivano la chiesa e tutti si univano al coro. Prendiamo il bastone che è Erta è la strada, vasto il deserto e lungo il cammino, e con fede sicura e speranza nel cuore cantiamo il canto del pellegrino. E quando veniva il ritornello, il coro delle voci si levava, ancora più forte e vibrante della musica. La strada antica dei nostri padri, canto di vita che porta al Signore, unica strada di verità, canto che sempre ci salverà. Tra l'andare in chiesa al mattino, il pranzo, i piatti da lavare e la chiesa di nuovo al pomeriggio, le domeniche passavano in fretta. Il lunedì si tornava a scuola e per tutta la settimana si aspettava con entusiasmo crescente la serata in programma per il venerdì. Sabato poi il tempo quasi non bastava per riparlarne fin nei minimi dettagli e poi era di nuovo domenica e il tempo volava. Come se non bastasse, l'Associazione Femminile di Carità decise di organizzare una cena per il giorno del ringraziamento per raccogliere fondi per la Chiesa. Una cena tradizionale, come si faceva all'Est, nel New England. Il giorno prima Laura si precipitò a casa da scuola per aiutare mamma a pelare, affettare e stufare la più grossa zucca che avesse prodotto il loro orto quell'estate. Pulì e lavò anche una mezza bacinella di fagioli tondini. Per contribuire alla cena, mamma aveva deciso di preparare la più grossa torta di zucca che si fosse mai vista e una teglia intera di fagioli stufati. Il giorno del ringraziamento non ci fu scuola, non ci fu nemmeno il pranzo del ringraziamento. Fu una giornata strana e vuota, in cui non fecero altro che aspettare la sera e scrutare ansiosamente la torta e i fagioli per accertarsi che cuocessero bene. Il pomeriggio fecero il bagno a turno nella tinozza, in cucina. Anche fare il bagno di giorno e per giunta di giovedì era strano. Poi Laura si spazzolò bene il vestito di scuola, si pettinò, si fece la treccia e si arricciò con cura la frangia. Mamma mise il vestito bello numero 2 e papà si spuntò i baffi e indossò l'abito della domenica. All'imbrunire Quando cominciavano ad avere tutti fame davvero, mamma avvolse la teglia dei fagioli in un foglio di carta da pacchi e poi in uno scialle di lana per tenerli caldi, mentre Laura vestiva Carrie e si metteva cappotto e cappuccio. Papà prese la teglia dei fagioli, mamma la torta di zucca che aveva fatto cuocere nella teglia grande in cui faceva il pane. E Laura e Carrie presero ciascuna un manico del cesto con i piatti di casa. Con l'altra mano Laura teneva Grace. Come ebbero passato la bottega di Fuller al di là dei terreni ancora non edificati, apparve la chiesa tutta illuminata. Intorno c'erano carri e calessi e cavalli e la gente stava entrando. In chiesa erano accese tutte le lampade, qualcuno aveva riempito i serbatoi di cherosene e la luce splendeva forte e brillante, deviata com'era tutta verso l'interno dai riflettori di stagno sistemati dietro il vetro delle lampade. I banchi erano stati spostati contro le pareti e in mezzo alla chiesa troneggiavano due lunghe tavole apparecchiate con tovaglie candide. «Oh, guarda!» gridò Carrie. Laura si fermò un momento sulla soglia. Perfino papà e mamma ebbero un attimo di esitazione, anche se erano troppo grandi per mostrare sorpresa. Un adulto non deve mai lasciare trasparire i suoi sentimenti nella voce o attraverso i gesti. Perciò anche Laura si limitò a guardare, dando una spintarella a Grace perché si muovesse. Ma era anche lei eccitata e stupita come Carrie. Al centro di uno dei tavoli troneggiava un intero maiale arrostito con una mela rossa in bocca. C'erano grandi piatti pieni di purea di patate, di purea di rape, di purea di zucca, gocciolanti di burro fuso dalla cima. C'erano zuppiere di mais che era stato ammollato nell'acqua e poi cotto con la panna, vassoi colmi di fette di dorato pane di mais, di pane bianco di frumento e di quel buon pane bruno di segale che sa di noci. C'erano cetrioli e barbabietole e pomodori verdi in salamoia e grandi calici di vetro pieni di conserva di pomodoro e di gelatina agra di frutti selvatici. E su ogni tavolo c'era una grossa teglia di pasticcio di pollo fumante e croccante nella crosta dorata. Ma la cosa più stupefacente era il maiale. Sembrava vivo, tenuto su com'era da quattro bastoni, sopra un piatto enorme pieno di mele al forno. Mandava un profumo, meraviglioso, un profumo più ghiotto di tutti gli altri piatti messi insieme, denso, ricco e sugoso. Un profumo che Laura non sentiva dalla sua infanzia. C'era già gente seduta ai tavoli che si riempiva il piatto, passava i vassoi di qui e di là, chiacchierava e scherzava. Stavano già affettando un fianco del maiale, carne chiara e fumante sotto l'involucro bruno di cotenna brustolita. «Quanto ne avete di maiale?» chiese qualcuno, tendendo il piatto per farsene dare una seconda porzione. Quello col coltello in mano tagliò una grossa fetta e disse: «Non so esattamente, ma pesava 10 chili buoni, pronto da cuocere.» Non c'era un solo posto libero. Dietro i commensali la signora Tingham e la signora Bradley si affannavano a riempire di tè e caffè le tazze che altrettanto rapidamente si svuotavano. Altre signore sparecchiavano via via che la gente finiva di mangiare e si alzava e mettevano in tavola piatti puliti. Appena un posto si liberava, subito qualcuno lo occupava di nuovo. E dire che partecipare costava 50 centesimi. La chiesa era già piena di gente e altra ne arrivava in continuazione. Tutto era nuovo per Laura. Si sentiva sperduta e non sapeva che fare. Poi scorse Aida in un angolo. Stava lavando pile di piatti. Vide che mamma si era messa a servire in tavola e andò anche lei a dare una mano ad Aida. «Non te lo sei portato un grembiule?» chiese Aida. «Tieni, mettiti questo strofinaccio davanti, non vorrei che ti schizzassi il vestito.» Essendo figlia di un ecclesiastico, Aida era abituata alle attività della chiesa, si era arrotolata le maniche sui gomiti, aveva messo un grembiule sopra l'abito della festa e lavava i piatti, chiacchierando allegramente. Laura li asciugava. «Che è successo questa sera? Lo immaginavi che venisse tanta gente?» «No.» rispose Laura, poi bisbigliò: «Ma ci lasceranno qualcosa da mangiare?» «Ma certo!» esclamò Aida e abbassando anche lei la voce aggiunse: «Mamma Brown ci pensa sempre, ha tenuto di là un paio di torte di frutta e un dolce alla crema.» A Laura delle torte di frutta e del dolce alla crema non importava granché, sperava ardentemente che ci fosse ancora qualche pezzo di carne quando anche loro si fossero sedute a tavola. ce n'erano ancora quando papà finalmente riuscì a far sedere Carrie e Grace e trovò un posto anche per sé. Laura li vide mangiare di gusto, mentre lei era sempre lì ad asciugare i piatti. Non aveva quasi il tempo di posarli, che già qualcuno li portava di nuovo in tavola, mentre accanto a Aida andavano crescendo interminabili pile di piatti sporchi. Servirebbe aiuto qui, disse Aida ridendo. Nessuno si era aspettato tanta gente. Mamma e la maggior parte delle altre signore si davano un grande affare. Con tutto il lavoro che c'era, Laura non se la sentiva di abbandonare Aida, sicché restò lì ad asciugare piatti e tazze, con una gran fame addosso e la paura che per lei non restasse più niente. Ci volle un bel pezzo prima che la gente ai tavoli si diradasse. Alla fine rimasero solo le signore dell'associazione, Aida e Laura, a non aver ancora mangiato. Lavati gli ultimi piatti, fu apparecchiata di nuovo la tavola e finalmente anche loro poterono sedersi. Al posto del maiale c'era una montagna di ossa, ma Laura vide con sollievo che erano rimasti vari pezzi di carne e c'era ancora anche un po' di pasticcio di pollo. Senza dir nulla, la signora Brown mise in tavola le torte che aveva tenuto in disparte. Laura e Aida mangiavano in silenzio, godendosi il momento di meritato riposo. Le signore invece si complimentavano l'una con l'altra per le buone cose che avevano preparato e per il successo della serata. Tutti intorno, nei banchi, lungo le pareti, negli angoli, attorno alla stufa, crocchi di uomini chiacchieravano e ridevano. Quando ebbero sparecchiato tutto, Laura e Aida lavarono e asciugarono gli ultimi piatti. Le signore presero ognuna i propri e si divisero gli avanzi. La torta di zucca e i fagioli di mamma erano piaciuti tanto che non era avanzato nemmeno un briciolo. Aida lavò le teglie, Laura le asciugò e mamma mise tutto nel cesto. Nel frattempo la signora Bradley si era messa a suonare l'organo e papà e altri uomini cantavano, ma Grace stava per addormentarsi ed era ora di andare a casa. «Devi essere stanca, Caroline», disse papà mentre tornavano a casa. Aveva preso Grace in braccio e mamma portava la lanterna, e dietro venivano Carrie e Laura reggendo il cesto coi piatti. Ma come intrattenimento è stato un successone! Eh sì, sono proprio stanca, disse mamma. Il tono lievemente piccato della risposta stupì Laura. E non era un intrattenimento, era una cena del ringraziamento stile New England. Papà non commentò. Battevano le 11 quando aprì la porta di casa. L'indomani era giorno di scuola. Il giorno dopo ancora era venerdì e ci sarebbe stata la serata del circolo letterario. Era in programma un dibattito intitolato Ormai è certo, Lincoln è stato più grande di Washington. Laura era curiosa di sentire che cosa avrebbe detto. C'era l'avvocato Barnes a presiedere e certamente sarebbe stato interessante. Sarà molto istruttivo, disse a mamma venerdì sera mentre si preparavano per uscire. In verità, lo diceva piuttosto a se stessa, perché sapeva che avrebbe fatto meglio a restare a casa a studiare. Aveva già perso 2 sere quella settimana. Ma ci sarebbe stato qualche giorno di vacanza a Natale e avrebbe recuperato il tempo perduto. Avevano spedito una scatola a Mary con tutti i loro regali. C'era il soffice scialle di lana bianca, dono di Laura, e il colletto di pizzo che aveva fatto mamma coi ferri da calza più sottili. C'erano anche 6 fazzoletti di batista, 3 con l'orlo normale e 3 con un bordino di merletto. I fazzoletti erano regalo di Carrie. Grace era ancora troppo piccola per fare qualcosa con le sue mani, ma coi pochi spiccioli che aveva, mamma aveva comperato un bel nastro di raso azzurro e ne aveva fatto un fiocco che Mary poteva portare sul colletto nuovo. Poi avevano scritto una lunga lettera con tutte le notizie. E papà aveva infilato nella busta una banconota da $5. Le servirà per comprare quello che le serve, aveva detto. Tempo addietro aveva scritto una delle insegnanti dell'università dicendo che Mary faceva grandi progressi e che avrebbe potuto mandare a casa un esempio dei ricami di perline che stava imparando a fare se avesse potuto acquistare le perline necessarie. Aveva bisogno anche di una lavagnetta speciale per scriverci sopra e più in là le sarebbe servita la lavagna particolare che si usava per scrivere in braille, un tipo di scrittura che i ciechi potevano leggere con le dita. Mary sa che la penseremo tutte il giorno di Natale, disse mamma. Le confortava il pensiero che la scatola era partita e sarebbe presto arrivata a destinazione. Ma senza Mary non parve Natale. Solo per Grace fu una festa. Aveva ricevuto in dono una vera bambola con la faccia e le mani di porcellana e due pantofoline nere cucite sui piedi di stoffa. Papà le aveva costruito una culla, inchiodando due assicelle curve a una vecchia scatola di sigari. Mamma, Laura e Carrie le avevano fatto un paio di piccole lenzuola e un cuscino e perfino una minuscola trapunta. E avevano vestito la bambola con camicia e berrettino da notte. Grace era fuori di sé dalla gioia. Laura e Carrie avevano unito i loro risparmi per regalare un ditale d'argento a mamma e una cravatta di seta blu a papà. Sul piatto di Laura c'era il libro di poesie di Tennyson e lei fece in modo che non si accorgessero che non era una vera sorpresa. Dal viaggio in Iowa avevano riportato anche un libro di racconti per Carrie. Quello fu tutto il loro Natale. Dopo aver lavato i piatti, Laura finalmente poté finire i lottofagi. Ma ne fu delusa. In quella terra dove era sera perenne, quei marinai non combinavano niente di buono. A quanto pareva ritenevano di potersene stare in panciolle senza far altro che lamentarsi. Se pensavano di andarsene, poi cominciavano a dire perché mai riprendere il travaglio dell'onda penosa? Ma come, pensava Laura sdegnata, non è forse la vita del marinaio il travaglio dell'onda penosa? Ma che, quelli volevano solo sognare e dormire. Arrivò alla fine. E chiuse il libro spazientita. Sapeva che dovevano esserci anche poesie più belle nel libro, ma così acuta era la nostalgia di Mary che le toglieva la voglia di leggere. Papà arrivò di corsa dall'ufficio postale con una lettera in mano. Era scritta in una grafia strana che nessuno aveva mai visto, ma era firmata Mary. Era stata lei a scriverla. Spiegava che aveva usato una tavola speciale di metallo con delle scanalature e posandoci sopra il foglio e tastando con le dita, aveva imparato come si potevano formare le lettere con una matita speciale di piombo. La lettera era il suo regalo di Natale. Raccontava che stava bene, l'università le piaceva e le insegnanti erano contente di lei. Stava imparando a scrivere e a leggere in braille. Le sarebbe piaciuto essere con loro a Natale, che la pensassero quel giorno, come lei avrebbe pensato a loro. Dopo aver letto la lettera di Mary, la giornata passò quietamente. Solo Laura a un certo punto esclamò: come piacerebbero a Mary le serate del circolo letterario. E all'improvviso si rese conto che tutto stava cambiando. Dovevano passare 6 anni prima che Mary tornasse a casa e nulla sarebbe più stato come prima. Nonostante tutti i suoi buoni propositi, nei giorni tra un trimestre e l'altro Laura non studiò affatto. Poi gennaio passò così veloce che le parve quasi di non poter tirare il fiato. Era un inverno così mite che la scuola non restò chiusa neppure un giorno e il venerdì sera c'erano le serate del circolo letterario, una più interessante e divertente dell'altra. Un venerdì ci furono le statue di cera di Mrs. Jarley. Quella sera venne gente anche dalle fattorie dei dintorni. Attorno alla scuola, legati a tutti i pali, c'erano carri, cavalli e pony. C'erano anche i due Morgan, ognuno con la sua coperta sulla groppa, e nell'aula affollata c'era il manso Wilder che chiacchierava con Cap Garland. Una tenda fatta con un lenzuolo bianco nascondeva la predella della cattedra. Quando venne tirata, un «Oh!» di meraviglia si levò dal pubblico, perché lungo il muro e ai due lati della predella c'era una fila di figure di cera a grandezza naturale. Quantomeno figure che sembravano di cera. Avevano tutte il volto bianco, come cera, appunto, tranne le sopracciglia dipinte di scuro e la bocca che era rossa. Stavano immobili come figure dipinte, ognuna avvolta in un telo bianco. Ebbero qualche momento per osservarle bene, poi la stessa Mrs. Jarley sbucò fuori da dietro la tenda. Nessuno aveva idea di chi fosse. Portava una lunga gonna nera e una cuffia antiquata col bordo largo e rigido e stringeva in mano il lungo righello del maestro. George Washington, disse con voce bassa e profonda, toccando una delle figure con il righello, ti ordino di animarti, muoviti. E la figura si mosse. Con piccoli movimenti a scatto tirò fuori un braccio dalle pieghe del telo. La mano, cerea come il volto, stringeva un'accetta. Il braccio si mosse ancora facendo il movimento di un taglialegna. A una Mrs. Jarley chiamò tutte le figure, toccandole con il righello, e ognuna, a turno, si mosse. Daniel Boone alzava e abbassava il fucile. La regina Elisabetta si metteva e si toglieva di testa una grossa corona d'oro. Sir Walter Raleigh avvicinava e allontanava la pipa dalle labbra immobili. Tutte facevano qualcosa ed erano gesti così ripetitivi, meccanici e senza vita, che era difficile credere fossero persone in carne e ossa. Quando fu chiuso il sipario, il pubblico mandò un lungo sospiro e poi si dette ad applaudire fragorosamente. Una dopo l'altra le statue di cera, che ora avevano ripreso a muoversi normalmente, vennero fuori a salutare e a inchinarsi. Mrs. Jarley si levò la cuffia. Era Gerald Fuller. La regina Elisabetta si tolse parrucca e corona. Era il signor Bradley. Le risate e gli applausi non finivano più. Questo è il massimo che si può inventare, disse mamma tornando a casa. Non si può mai dire, rispose papà con un guizzo di divertimento negli occhi, come se sapesse più di quanto intendeva dire. Tutto il paese ci ha preso gusto. L'indomani Mary Power andò a trovare Laura e per tutto il pomeriggio non fecero che parlare delle figure di cera. Quella sera, quando si mise a studiare, Laura non riusciva a tenere gli occhi aperti. È meglio che vada a dormire, disse. Oh, così. Oh. Non poté finire perché le venne uno sbadiglio gigantesco. Così fanno 2 sere senza aprire un libro, disse mamma, e domani si va in chiesa. È stata tutta una sfilza di divertimenti ultimamente. A me sembra. Hanno bussato? Si sentì bussare di nuovo e mamma andò ad aprire. Era Charlie, che però non volle entrare. Mamma prese la busta che le porgeva e richiuse la porta. Questa è per te, Laura, disse. Harry e Grace spalancarono gli occhi. Mamma e papà attesero che Laura leggesse l'indirizzo sulla busta. Signorina Laura Ingalls, De Smet, Dakota Territory. Ma cosa sarà? Disse Laura. Aprì la busta con una forcina, cercando di non strapparla, e tirò fuori un foglietto col bordo dorato. Lo spiegò e lesse: Ben M. Woodworth ha il piacere di invitarti a cena a casa sua sabato 28 gennaio alle ore 8. Come a volte faceva mamma, Laura si lasciò cadere sulla sedia senza saper che dire. Mamma le prese l'invito di mano e lo lesse di nuovo. È un invito a cena, disse, una festa. Laura, sei invitata a una festa, esclamò Carrie. Poi chiese, com'è una festa? Non lo so, disse Laura. Oh, ma come faccio? Non sono mai stata a una festa, non so come ci si comporta. Beh, ti è stato insegnato a comportarti come si deve ovunque tu sia, Laura, rispose mamma. Comportati bene, come sai fare, ed è più che sufficiente. Aveva ragione, certo, ma Laura non ne fu per niente rassicurata.